Beh, c'è qualcuno qua? Ma mangi... Chi è? Chi è? Io non me ne avevo risposto. Chi è che sta fischiando? Aveva un altro. Ci cucano alle 10, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Gabri, ti porto Polino, ma ti vedo. Chi c'è qua? Io ci so, perché cosa c'è? Ciao già, buonasera. Ciao, no, qua, e beh, tutto ok. Ciao, già Nannini. Ui, ui, Luca. E beh già, ti sento felice, cos'è? Ah, schiacciato. Ti adatte. Che poco male Natalino, l'ho visto oggi, no, ma che ho visto mia mamma. E dove l'hai mai visto lui? Ah, certo, a San Camillo. Adesso mi stai provocando, mi poi quando te ne dico quattro. Ma vieni lì a prenderti la mamma, bisogna non ce n'è più lì, c'è a casa tua di mamma, c'è solo lì. Per forza, se qua l'hanno finita. Sono tutti incazzati neri qua. È stata a fare la visita di nuovo col naso, cazzo, ma l'ha fatto anche male. Però dice che sta andando bene già, alla grande. Molto bene. Adesso devo andare il 29 di questo mese. Penso che abbia finito, comunque ha controllato, 10 minuti me ne ha fatto di aspirazione. Mi ha detto che sta andando non bene, di più. Fatelo un conto, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cazzo, cioè, prima un mese di cura, minchia, vuoi di soli, vuoi di soli. Oh yeah. Luca. Sì, mi cura, ma cosa ci fermi? Eh sì, adesso si è capita a metà. Non ho capito, scusa, già. L'anguria. Ho capito cosa hai detto, ma perché parli molle? Parli molli subito. Tu è che poco fa hai parlato, hai detto una cosa ma non ho capito, perché si sente a metà. Ho detto che ancora ne ho. Oggi è 16, al 29 ce l'ho vista, guarda quanti giorni ancora, quanti soldi che devo spendere, porca paletta. Siamo tutti nella stessa barca. Già, ma non immagina, meglio una mese. Teo, passi. Quelli accumulati se ne stanno andando via. Tu grazie a Dio ogni mese li prendi, o no? Capito, quello è il discorso. Non è facile. Vabbè. Ma Giacca... Almeno mi ha aggiustato cazzo gli spruzzini oggi dalla macchina. Con l'ago si fa quello, lo facevo la macchina di Edda. Capito. Li sbloccavo io. E qua non era questione di spruzzini, no. C'era bloccata la membrana del coso, del raccordo, quella a tre. Vabbè, comunque. Io l'avevo fatto a lei. Andiamo via proprio. Gli avevo già cambiato il motorino e cazzo mi si è bloccato così. Ho detto ma cosa cazzo va sul motore andente, va. Ed era un raccordo. Ci va una membrana ed era bloccato. Vabbè già. E Gianni sta schiacciando forte. Gianni schiacciando stai, eh. Quindi non ha detto si stringe. Non ti rispondi, no, è impignato, Gianni il caldo, è impignato. Nannini. Stavo chattando. Cabagaba, stavo rispondendo. Questo Gianni sempre schiacciando, sta chattando. Non si dicono queste cose. Perché cosa ho detto? Cazzo. Schiaccia le tasti, mi già, non è che sta schiacciando questa che cosa, schiacciando i tasti. È malizioso questo Gianni. Secondo me anche lui è mezzo una bamba da un po'. Secondo me si Natali. Gianni sta andando alla grande, sta andando a fare. non si ne può fare che ce ne dà la isciucca, bu bu. Se sei buone, bu. Ma se mi ha messo la radio Ruiz sopra il mobile, ma non so quanto sta bene, tutto richiama il colore del mobile. Lo so. Sono belli apparecchi. Stamattina sono uscito in macchina, cazzo. Dice che gli arrivavo più forte dalla macchina che da qua a Giulia. Ma sai che canto buon paghi Sant'Enna. Sapevo pompa, c'ha Gianni uguale, così è già. No, ne ha Gianni PLC 800, Gianni c'ha la Turbo 2001 e poi c'ha quell'altra nuova che pompa lo stesso, quella è buona l'antenna. Quella c'è stato il video, l'ho vista, mi sono fermato lì, stavo andando in via Cazzo di Arena, sono fermato la pizzeria, la fatta vedere, e trovo l'antenna. Ma dov'è la pizzeria dove lavora Salvedio? Io non lo so ancora, ma lo sai. Allora, via Grazia di Letta, hai visto, sali, all'inizio più, ti rimane dopo la falata del tram, sulla destra, salendo. Una cappa. Dove una volta Andrea ci aveva la pescheria lì. Ehi, mi lamenta Sandy, la via. Esatto. Oh, che casino qua. Un casino. Che la metà basta, devo cercare una scheda, una grafica, perché cazzo l'ho messa, cazzo che casino qua, cabalito guardi, non so neanche dove cazzo l'ho messa su questa scheda. Datemi un secondo. Luca, te li ricordi quegli apparecchi, quelli piccolini della Intec? Quelli che hanno l'attacco del microfono con tante punte, quello strano. Boh. No. Quello piccolino c'ha 34 canali in AM e 34 in FM. Ah, e beh? Quello lì mi ha messo in macchina, ma santo bomba. Sì, c'ho lo spilotto brutto, capito. Come? Ho detto che ha con lo spilotto brutto. Ma la carina è perché c'è la frequenza, aspetta, la 446-081 accesa. No, non c'ho più nulla. C'ho il ricevitore, ma è spento. Non sto più ascoltando né nulla, c'ho questo baracchino solo per miracolo, l'altro mi sei fasciato nel 2009, che è un peccato il suo baracchino in Navarona. Buonasera. Buonasera. Ciao Luca e Natalino. Ehi, quanto tempo che non ti sentivo, Carlo. Ciao Carlo. In questo periodo ero impegnato, tante cose. Perché poi stavo facendo dei lavori e quindi avevo tutto sotto sopra, perché mi sono messo a imbiancare la camera di mia figlia che deve rientrare a fine mese e poi mia moglie, lo sai com'è, non sapeva cosa fare, perché non imbianchi anche la cucina visto che c'avevo una settimana di ferie e ne ho dovuto smontare mezza cosa, quindi avevo staccato anche radio, tutto quanto. E oggi sono riuscito a ripiazzare tutto, adesso eccomi qua. E quindi ti ha messo a lavoro in corso la signora, bubu. Mi sa che succede a tutti così. E voi di bello cosa mi raccontate? Ciao Carlo, buonasera anche a te, come stai? Non c'è male, e tu Luca? Io in fase di guarigione, dai, ci siamo quasi. Ma avevi fatto l'intervento al naso? Ho sistemato un po', dai. Bene, bene, adesso come va? Respiri meglio? Sì, sì, sì, se ha voglia. E ancora c'ho l'altra visita al 29. Oggi mi ha martoriato per 10 minuti, dai, sono andato bene. L'altra volta a cavolo, più di mezz'ora mi sa. Mamma mia, non finiva più, Però lui mi dice, ho finito, io tiro un sospiro di sollievo. Dai, le cose brutte purtroppo bisogna affrontarle, dai, e poi già passa. Quando vedrai passa un mese, due mesi, già inizi a un pochettino a dimenticare le cose negative, purtroppo è così, bisogna saperle affrontare, ma tu già sei vedo maduro, dai, è già ne uscirai bene da questa piccola disavventura. Vedo maduro, non si può vedo maduro comunque. Dai, diciamo che la fase brutta l'ho passata, e lo piano. Poi mi ha detto male, tanto male, tanto male. Buonasera Carlo. E buonasera anche a lei. All'ombra, io mi sono spostato un attimino, che avevo bisogno della glicemia. KK, è anche quello da controllare. E già andava bene, dai. Interessante che vada bene, che non salga troppo. L'altro giorno mi ha fregato, ho mangiato la pizza e ho bevuto una lattina di birra e mi è alzata a 540. Sì, caspiterina. Sì, beh, sempre tenerla sotto controllo. La pizza me la fa salire poi abbinata con la birra di tutti. Se bevi il vino no, ma se bevi la birra, ui. La birra te la fa salire già. Eia. Ma chi su non ne vinco, così impara. Poi la birra accompagnata con la pizza te la raccomando. Non ne mangio più, si bevo acqua e basta. Se mangio la pizza bevo acqua. E infatti, già la pizza te la fa salire, figurati accompagnata con la birra. Ma al limite un bicchiere su di vino, va. Lo so, ma con la pizza il vino non ci sta per me, boh. Ci sta più la birra. Allora, Vieva, atta. E l'acqua, tranquillo che non te la fa salire. Acqua di fonte, come diceva mio nonno. Sono pensato che si avvicina d'acqua di fogna. Avanti lui. Anche a me metto la birra con la pizza. Però se c'è vino buono già non guasta. Cappa, no, io con la pizza non mi piace il vino. Il vino lo mangio mangiando proprio pasteggiando altra roba. Poi mia figlia mi ha mandato il filmato da Bologna, da casa sua, è tutto allagato, un ubifragio, cioè allucinante, sta continuando a piovere, fino a domani sono in allerta meteo. Sì, è vero, c'è stata un'alluvione lì a Bologna, tutta quella zona lì è un casotto. Infatti sono un po' preoccupato, detto, non uscire da casa, perché lo sai com'è, no, statene a casa, tranquilla, e dice tanto non devo andare manco a lavorare perché hanno bloccato tutto anche al lavoro. E infatti c'è un tempo del cavolo proprio lì. Ho visto l'Emilia Romagna e insomma tutti i fiumi, i torrenti, tutti in piena sono, talmente ne sta facendo di acqua, mamma mia. Comunque l'importante è stare insomma ai piani alti, chi ha la possibilità, e i rischi sono pochi, dai, se stai ai piani alti. Vabbè. Ma un po' di preoccupazione c'è sempre, caro. E beh, quando si tratta di figli è così. Andabè. Speriamo che si risolva tutto entro stasera, non entro domani. Sino a domani c'è l'allertamento. Sì, ho visto i filmati al telegiornale. Infatti anche le scuole mi sa che rimangono chiuse. E come fai? Non puoi manco attraversare la strada, come fai? A parte che c'è corrente, proprio l'acqua sta proprio straripando, correndo da una parte all'altra, proprio scende a tutta velocità. Caspiterina, sì, ho visto, è bella, poi color fango, che sta trasportando un po' di tutto, di tronchi, ho visto, mamma mia, quella ne fa di danno. Purtroppo la natura non la fermi così. Yeah. Natali, ma stai cercando radio perché cosa ti si è rotta la tua? Il 3009, l'omologato mi si è rotto. E non si può riparare? Non penso, ma vediamo un po' adesso. Se no lo portiamo a cosa, a Borore. Bisogna avere un certo strumento per poterlo riparare. Questo amico mio gliel'hanno buttato via e quindi è in difficoltà per quello. Ma già se lo sta costruendo un altro. Vediamo un po'. Ho capito, no, questo che ho preso io, come si chiama, questo è il 9009, questo già va bene. Sono contento anche del display che ha i numeri più grandi dell'altro che avevo. Il K, io ho il 5555, tipo il 6009, dai. Questo qui, meno male, in tempo ha fatto. È arrivato questo e si è rotto l'altro. Vabbè, dai, tutte le cose, insomma, prima o poi si sfasciano e non bisogna mettere niente per scontato e magari anche le cose che paghi tanto di marca, a volte, diciamo, arrivano alla fine anche quelle, quindi poi alla fine è così. Ma ce l'avevo da poco il 3009, è che quello lì deve essere stato un apparecchio che hanno restituito, io l'ho preso per nuovo, perché era nuovo, però ci hanno messo le mani dentro, capito? Se ne è accorto subito quell'amico mio quando l'abbiamo aperto qua, è stato messo mano. Magari il rivenditore non ne sa neanche che è in quelle condizioni, capito? C'era anche la scheda storta che non era negli incassi sui, insomma è stato messo male quell'apparecchio, dai. Evidentemente hanno fatto anche un pochettino i furbi allora, capito? Magari era qualcosa che era stato restituito perché difettoso, gli hanno dato un'occhiata veloce, hanno richiuso tutto e a volte queste cose, insomma, queste piccole fregature si possono prendere, ma niente di gravissimo, dai. Da me c'era anche la presa dove attacchi lo spinotto della colonnina con le saldature mollate, le piste, c'erano due piste messe male, mi ha fatto il ponte quell'amico mio, un diodo nell'alimentazione che non era il suo. E io l'ho preso per nuovo, l'ho pagato un casotto di soldi. Lo immagino, perché tu l'hai preso come nuovo. E infatti l'ho preso perché era omologato, non per altro, perché io ero nel mirino, capito? E allora dovevo avere un omologato per forza, non stavo usando sempre quello. Ho capito. E allora Gianni, che ero da quel dì senza sentirti, cosa ci racconti di bello? Io entro tutta la serie, caro, sei tu che stavi entrando poco, se ti sei messo a pitturare, adesso visto che sei detto che ci hai fatto la mano, passa a casa, che te ne do un po' io di camera a pitturare. Oh, guarda, in questo periodo, tra la casa di Bonorva di mia suocera, che la stiamo mettendo un po' a posto, quindi non c'ero quasi mai, e neanche in macchina perché stavo utilizzando il portabagagli, trasportando mille cose, poi qualche giorno fa ci avevamo la messa del trigesimo, quindi vai, vieni, qua e là, insomma, questo periodo qua è stato un mese almeno che non avevo tempo di entrare, la sera ero stanco morto, tra lavoro, rientravi, uscivi, eccetera, credimi, non ho avuto un attimo libero. E adesso rilassati un po', là, perché sennò anche il fisico poi chiede il conto. Rilassati un po', adesso state un po' tranquillo, così almeno ti riprendi tranquillamente, là. Adesso che è finito, respira. E adesso ne avrò di più da lavorare. Già adesso questa settimana c'ho ancora domani di ferie e rientro giovedì di mattina. faccio il turno di mattina e insomma sono libero poi domenica e lunedì e poi il 28 devo partire e rientro il 29, devo andare a Malpensa perché arriva mia figlia, però me ne vado dal giorno prima perché voglio fare un pochettino di acquisti a Milano, quindi arrivo all'Inate, mi fermo a Milano il 28 domenica e poi lunedì mattina prendo l'autobus che mi porta a Malpensa e poi ho prenotato già il volo da Malpensa ad Alghero per rientrare alle 20:30. E vabbè, dai, adesso ti compri un po' di radio, se trovi qualche negozio lo svaligi. A Milano ce ne sono diversi di negozi belli, di apparecchiature radio, ce n'è anche uno al centro, non mi ricordo la via ma già mi ricordo dove è il negozio, è solo che io di domenica non so se trovo aperto, se no ci sarei entrato a vedere, a curiosare, capito? Quello vendeva un sacco di apparecchiature di tante marche, capito, dalle V alle U alla Citizen Band, di tutto di più, ricevitori, capito, marche di tutti i tipi, ma anche roba buona, Iaesu, Marcucci, tutte quelle marche, insomma, le più famose. Ci sarà ancora, ma da quanto tempo è che non lo vedi questo negozio? Perché questi negozi stanno tutti chiudendo, magari là c'è il mercato, perché qua tutti quelli che c'erano non ci sono più, è rimasto la GBC e Fusaro, boh, ma non c'hanno mai niente di quello che li chiedi, è un casino, l'unico è Fusaro che magari qualcosa c'era, ma la GBC oi. Mi ricordo la via che rimane sotto Porta Romana, prima di arrivare alla zona dei Navigli, in quella zona lì, ma io l'avevo scoperto per caso perché quando mio figlio aveva la casa da quelle parti, capito, girando in quelle zone, per caso l'avevo visto, sai, vedi la vetrina e le radio le riconosci subito, ed era anche bello fornito, capito, non so se faceva anche centro assistenza, qualcosa del genere. Capito. E lì magari la città essendo grande c'è più mercato. Lì sì, perché ci sono tassisti che le usano, là vanno, i tassisti hanno tutti la radio in VHF, hanno le frequenze dedicate, capito? Quindi le radio se le comprano e le portano lì a farsele canalizzare, capito? Perché mi ricordo che c'erano due taxi fuori e c'era uno dentro che stava armeggiando e sicuramente, capito, fanno anche centro assistenza. Perché qua non sappiamo dove portarle, tranne che da Morone, ma è già lontano, in città farebbero soldi a palate. Peccato che qua a Sassari non ci sia nessuno, capito? Ci sono giovani disoccupati, magari anche diplomati alle industriali, capito, che potrebbero fare qualcosina, ti metti, prima c'erano questi negozi dove si riparavano le TV e facevi anche riparazioni radio, insomma, e un po' di guadagno c'era, capito, se ci sai fare poi insomma già li puoi fare i quattrini. E adesso c'è rimasto Vittorio lui a Sassari che ripara più che altro televisori, questa roba qua della Sony, perché c'hanno una certa assistenza a Sony, e poi qualche apparato lo fa, dai. Ma mi sa che Vittorio c'ha anche il figlio che fa queste cose, la Sony mi sa che ce l'ha, è del figlio, non è la sua la gestione. Sai perché te lo dico? Perché tempo fa avevo portato una PlayStation lì che sputava fuori il CD e lui, Vittorio, che io non lo conoscevo allora, mi aveva detto dice non lo so perché delle PlayStation se ne occupa mio figlio, ed ero ritornato l'indomani, capito, gliel'avevo lasciata, il figlio mi aveva spiegato che non c'era molto da fare se non che togliere il sensore, capito, per diciamo il respingimento del dischetto in automatico, e dice anziché farlo in maniera automatica, dice sì, lo fai con i comandi, e dice così viene fuori quando, solo quando lo decidi tu, perché dice si è sballato il sensore, andare a cambiare il sensore ti costa più della PlayStation nuova, e praticamente era la PlayStation 4 di mio figlio, gliel'ha riparata e da allora funziona ancora, capito, gli ha eliminato solo il sensore. Magari il figlio ci lavora, perché io so che è di Vittorio, che di Vittorio sono in società, mi pare, con un altro, ci lavorava anche la moglie prima, adesso non lo so se sta lavorando ancora, ma ci lavorava anche la moglie, e ha molto lavoro, perché è pieno di lavoro. Sì, già lo so, ma magari lui si occupa di Sony, magari apparecchiature TV eccetera, e magari lui mi aveva parlato del figlio e vuol dire che ognuno ha il suo ramo, capito, però hanno l'assistenza Sony là. Sì, ognuno c'ha il suo settore, certo, ma qualche apparecchio radio lo fa, capito, quando c'ha tempo, perché il mio Galassi mi ha detto che se avesse avuto tempo l'avrebbe fatto, ma l'ha aperto visto che era incasinato e me l'ha richiuso e basta, mi ha fatto pagare solo per, diciamo, perché la manodopera, perché l'ha aperto e chiuso e basta. Ho capito, sì, mi ricordo, infatti poi te l'avevi preso e l'avevi dato a me, quello ti ha detto dammelo a me che magari riesco ad aggiustarlo, e poi già me l'aveva aggiustato a Borole, Albino. Questo è Ruiz, come sta andando? Ma il tuo? Sì, è mio, sì. Questo che stai usando anda bene mera. E Ruiz è questo qua. Era Ruiz nelle stazioni base. Sì, me lo ricordo vagamente. Gabba. Allora, aspetta, che ci deve avere lo scotch inserito. Avevo lo scotch inserito, era una telefonata, non sentiva quarrebbe di nulla. Però se c'è qualche stazione massa magari non la sente. Anche qua, io infatti l'altra volta ce l'avevo così regolato. Però i segnali bassi li esclude, capito? Magari ti arriva un Santiago 5 e non lo senti. Ah beh, certo. Ho capito, mi sto bevendo una birretta dopo 20 giorni che stavo battagliando, adesso ho avuto un attimo libero perché mio figlio oggi è pure il compleanno, è uscito con mia moglie a farsi un po' di compere e quindi sono solo soletto, adesso mi bevo un bicchiere di birra. Sì, sì, Luca, che via se ne sono andati. E magari aveva da fare Luca. Lo so. Io e magari l'ha chiamato la sua pischella al telefono. Natalino, ci sei? Cosa a caga, non si è sentito? No, magari Natalino è andato a cenare, a mangiarsi qualcosa. Sì, a cena sicuramente Natalino. Sa che c'era quest'ora solitamente, o a preparare o a mangiare. Sì, adesso lo stesso, tra un pochettino iniziamo a come rientra mia moglie, spero di cenare presto, perché stasera ci sono le partite di Champions, che a me piace il calcio, insomma c'è il derby Inter-Milan, all'andata ha vinto l'Inter 2-0, oggi vediamo come va, se no su Prime Video danno il, come si chiama, il Real Madrid con gli inglesi, non mi ricordo chi sono gli altri, o una o l'altra mi guarderò. Liverpool. Forse il Liverpool, sì. Perché praticamente chi passa adesso va in finale a Istanbul. Io non c'ho quella passione del calcio, mi piaceva giocare quando ero giovane, però le partite mi guardavo solo quelle dell'Italia, no? Mio padre mi era... anni non stai uscendo. Gianni, sino a un pezzo ti ho sentito, poi c'era la portante, non stavi uscendo però di radio, eh. Sì, perché questo microfono se non premi forte, poi il dito perde la forza, capito? Se mi preme non è forte perché è duro, è quello che disturba, ma questo microfono c'ha una capsula che è eccezionale. Ho capito, sempre del Royce, no? Ah, questo qui è static, il microfono è static, l'ho adattato io, perché lui l'ho comprato col microfono, vado a usarlo e non funzionava. L'ho chiamato, mi ha detto strano, perché io l'ho usato sì da poco tempo fa, anche se io lo usavo di raro, però l'ho usato sicuramente, si è staccato qualche filo, io per non aprirlo e cosa, gli ho fatto direttamente il collegamento a questa static. Franco me l'ha fatto, Franco California, e l'abbiamo fatto insieme e con questo microfono si adatta. Ci adatta, ho capito, non ho neanche, non sono entrato neanche nei canali in banda laterale, nulla. Adesso quando ho tempo mi faccio anche lì una navigata, diciamo, in quelle frequenze, a sentire un po' di collegamenti. Non so nemmeno se c'è propagazione, se ce n'è stata nei giorni scorsi, nulla. Sì, nei giorni scorsi ce n'era, ma era corta, non era di quella lunga. Ogni tanto si sente qualcuno collegato la divisione delle canali e via dicendo, però non è lunga, capito? Cade subito. Sì, è perché il tempo ancora non è stabile, capito? Se l'altro giorno sembravamo d'inverno, piovendo, con la temperatura che si è abbassata, insomma, uno schifo di primavera sta facendo. È quello che ti fa malare, il cambiamento di temperatura, questi sbalzi qua fanno malissimo. E infatti già c'è un sacco di gente con raffreddore, mal di gola, qualcuno si è preso proprio febbre, dolori muscolari, perché insomma esci leggero e poi cambia all'improvviso e prendi insomma gli sbalzi di temperatura se non sei ben coperto e ti frega, capito? Vabbè, certo. Io, guarda, non so più come vestirmi, allora prendo, mi metto la tuta con un giubbino e così almeno non sto né leggero né pesante. Sì, io infatti sto uscendo in camicia e sopra mi sto mettendo di quei giubbottini leggeri, capito? Però se poi vedo che c'è vento eccetera, lo chiudo il giubbotto e già mi tiene caldo, capito? Perché uscire solo in camicia non mi fido, perché a volte ci sono correnti anche belle fresche, capito? Ti fregano quelle. Scusa un attimino, sono a telefono. Ehi, vai tranquillo, già, tanto anch'io sto facendo una cosina. Carlo? Eccoci. Ci sono messi tutti d'accordo a chiamarmi, capito? Finito uno e iniziava l'altro. Cioè, o non ti chiamano nulla, o ti chiamano tutti insieme. Non ti preoccupare, tanto sono qua. Le cose da fare non mancano mai. Sì, quello già è vero. In una famiglia è sempre così. Ma tua figlia ha finito? Sì, mia figlia rientra il 29. E vi porta a casa il suo amico là? Viene il fratello australiano, ci sta un mese, poi va via lui e viene la sorella. Ce n'è per tutti. E quindi ci toccherà scorrazzarli qua e là, perché praticamente la sorella non ha la patente, lui l'ha appena presa e invece però non ha fatto in tempo a prendersi quella internazionale, perché devi avere la patente da 5 anni se non te la danno, capito? Io tanti anni fa, quando sono andato in Australia, mi avevo preso quella internazionale e avevo guidato tranquillamente là, solo che anziché fare la freccia a destra usavo il tergicristallo, capito? Perché là c'è la guida dall'altra parte, si guida come in Inghilterra, insomma. Giusto i primi giorni c'è un po' di difficoltà, poi già ti abitui però. Ma guidavi macchine che ce l'hanno là, dai. Break, eh? Sì, esatto, avanti break. Buonasera a tutti. E buonasera. Antò, buonasera. Buonasera, buonasera. Antonio, carissimo, come va il puffetto? Tranquillo, tranquillo, fai i tuoi discorsi, l'amore mio. Starà crescendo adesso, ah, quanto ha? 5 mesi. Ormai è un giovanotto, Già lo credo, poi crescono in fretta, guarda i bambini. Adesso, insomma, ti ritrovi a Natale che c'ha quasi un anno. Sì. Guarda che cresca bene, no, ma che tranquillo. Grazie a Dio. Meglio così, mi in compagnia di Gianni facendo 4 chiacchiere. Ciao. Ciao Gian. Ciao, ciao Anto, scusa un attimo che mi stanno facendo passare. Ehi, e tu, come va? E io ero un po' di tempo che non accendevo radio perché stavo dicendo a Gianni che c'avevo insomma tante cose da fare eccetera e quindi avevo anche staccato qua perché mi sono messo a imbiancare una camera, poi mia moglie mi ha detto visto che ci si fa la cucina eccetera, quindi ho staccato tutto, ho tolto i pensili, insomma un macello. Adesso ho sistemato tutto e niente, mi ho avuto un attimo di tranquillità, ho detto ci provare la radio, se tutto a posto, ma pare di sì, Anto. Certo che ti stavano facendo la facciata. Sì, no, i lavori quelli sono tutti bloccati ormai da diversi mesi, capito? Perché avevano bloccato i crediti, le banche, quindi le imprese non avevano soldi a pagare gli operai, hanno bloccato tutto. Adesso dice che riprendono a fine mese, meno male. Ah, capito. E cioè, noi hanno fatto il 75% della facciata e il rimanente ancora è senza fatto, ancora non ci hanno cambiato gli infissi, il lavoro ne hanno da fare. Capito? E così è, quindi niente, adesso anche io devo uscire a fare una piccola commissione qua vicino perché stavo organizzando la cena e mi manca conserva e cipolla. Ah, quindi andiamo a pigliare la piotta. Ma ce l'ho vicino qua il negozietto, quindi 5 minuti scendo e risalgo, dai. Adesso non so se Gianni ha terminato. Non so, Gianni, prego, sta passaggiando. Eccomi, no, stavo ascoltando più che altro un vocale. Ho capito. Ti stavo chiedendo già, come funziona lì le bancarelle, le colture, sai qualcosa, che io no. Ma questa manna non sono mai certo. Ah, funziona così, dal venerdì sera piazzano le bancarelle, ci sono già le bancarelle dal venerdì, poi c'è sabato e domenica, che la festa proprio, il venerdì sera scendono da Sassari i pellegrini, eccetera, e poi il sabato e la domenica c'è proprio la festa grande, e lunedì fanno la frittura del pesce, dei calamari, non so che pesce c'è, al porto. Ho capito, no, perché io devo scendere a una certa ora perché devo stare tutta la notte, capito, a controllare, non tocchino la roba. Scusate un attimo che devo uscire, se posso rientro tra 5-10 minuti. Ciao Antonio e Gianni, dai, ci sentiamo più tardi, sto facendo una commissione al volo. Ehi Carlo, vai tranquillo, dai, tranquillo, siamo qua. Anto, perché cosa stai facendo la guardia giurata? No, l'ho sempre fatto quel lavoro. Praticamente sicuramente scenderò verso le 8:30 di sera, scendo con la moto di una costruttora, poi a mezzanotte devo stare un po' lì un pochietto, capito? Devo entrare a mezzanotte, devo entrare, poi entro a lavorare di notte, c'è una certa ora fino all'indomani. Ma dove? In qualche bancarella? Sì. Ah, ho capito. Adesso vediamo, magari. Capito, magari fatti il giro, eccetera. Vediamo quanti mi pagano, io li controllo la roba. Se c'è qualcosa chiamo la polizia. Ho capito. No, i carabinieri, sono i carabinieri lì a produttore, se vuoi con i carabinieri. Facete lui. Sì, ma chiamo i carabinieri, quindi fermo erano 10 euro a ora. Non va bene. Si può aumentare in domani. Per non starci loro stanno facendo mettere a te, ma di Sassari sono. Sì. Ah, ecco. E loro, capito, si fanno, si riposano, poi domani vanno a vendere, c'hanno ragione, se no non puoi stare tutta la dinchi. Beh, io non è, non scendo troppo tardi, appunto, d'ora per voi ci pensiamo la strada. Scendo una certa ora, perciò ci sembra già di sera, alle 8. Quando c'è un po' che più di luce, poi ci capisco. Sì. Mi pare che ci sia anche, ci sono anche le vibrazioni a Porto Torres, il complesso delle vibrazioni alla Torre Aragonese. Quello è bello. Sono il 27, quindi dovrebbe essere il 25, 26, 27, no, 26, 27 e 28 dovrebbe essere la festa grande. Io faccio la, devo fare anche la cavalcata, abbiamo detto. Siamo andati a Sassari. E io. Per controllare la Maradona. Certo, e come ti fai? Cappa, ci va bene, dai. Io spero che mi paghino più giusti, almeno mi controllo la bancarella, capito? Se mi pagassero di più, io auguramo, giro e controllo. Tanto bene mi senti con questo apparecchio? Benissimo. Questo è Ruiz, aspetta che mi sta mandando un messaggio a Gogo. Gabriele vuole stare con me. Gabriele, il bambino ha deciso che vuole stare con me, era due ore, era Gianni. Ehi Antu. Ehi, ci sei ancora? Sì che ci sono, ma fra un po' devo andare perché devo portare il capo. E oggi mi devo incontrare con una persona. Per una serata. Ah, infatti ti ho visto che eri tutto quanto in velocità. Devo fare impresa, lo devo fare, sai dove? Dove trovate voi alla Tito lì? Perché lì cosa c'è? Cosa è rimasto? Qualcosa del comune? Circolo c'è lì. Cosa dentro? Il circolo, nella veranda. Lo devo fare. Agnagna c'è lì. Pregare. A tu che balle. E chi è? Avanti, chi sei, Gio Maria? Ah, a tu, tu quelli perché c'è la gnagna. Ma cosa gnagna? Ehi, puzzinoso, lo ti conosciamo. Ma che c'è Luca? Cosa gnagna, è andata la paglia in chiede. Non la guardi infatti. Oia. Sì, ero conosci pure careggia. Sì, era mi burro la fare impare. No, a chi lo devo fare, chi lo devo fare, te lo conosce Gianni. Ehi, a chi era? Buongiorno a chi entra. Ehi, ti stavo dicendo già. Che te lo conosci pure chi è? Non lo so. È il pizzaiolo. Ma quello vicino a casa? No, via Cazzaretta. Ah, ho capito, quello che inizia con la S. Bravo. Cosa c'è, festa battesimo? Non lo so, non mi ricordo già la comunità, non mi ricordo adesso. Chi è la gara? Lo festeggia, lì lo festeggia. C'è pure Michele, non so se lo conosci, ma c'è il Michele Peano, lo conosci. Certo, se sono Michele è di lusso. Dobbiamo dare i campi, tutto. Bravissimo Michele, suonando chitarra, mandolino, bravo lì due, e canta in neppure, bravo. Soprattutto si è in compagnia di un figliolo, Ma Michele qual è? Quello che è accaduto a casa tua, Anto? Vabbè, allora vi divertite. Frequenta qua, dal circolo qua giù. Vabbè, io il circolo non ho mai frequentato. Fine, hai visto rimanere da muccio, li batti intossicati, o se si sente. Tu mi hai sotto casa, mi ero grido, dopo che cazzo la glicemia, sempre buffendi. Giù, ha fatto lunga una cannuccia, lunga. No, quest'altro, questo c'è sotto casa mia. A te lo riconosci tutti. Ma che a me piace il circolo. Guarda, ogni tanto andavo, perché mi mandava magari il messaggio coso, Marino, che c'era Bacchisio anche, no? A prenderci caffè lì, da qui da Mario, ma se no non mi sono mai interessato in circuito. Preferisco, se dimmi da bere una birra, preferisco andare al bar. Ecco perché non mi piacciono a me i circoli, perché si biancheggiano in vasi di sangue umano e da voi si siede in risse. Ecco perché non mi piace. Mamma noi ragazzi. C'era con l'amico di Luca. E ha detto là sarebbe lì e basta, le sarei attaccati. Dopo dalla ragione ci passa il torto, poi arriva le carabinieri, dice che date, si muore in mezzo pure a te. È un casino. Si passa dritto, ti dico. Allora, che Gianni, per questo è no, allora è amico di Gianni. No, ma Lula, è così, nei circoli succede questo, si ubriacano magari, va del sangue umano e cominciano a rompiti le carte, poi si sono le zecche e fanno così. Ma allora, meno male, un po' hanno migliorato, diciamo, esteticamente dentro, cazzo che prima è proprio brutti, cazzo, è proprio arrandaggio, dirmi. Mica io, già lo sai che ho fatto servizio ambulanza al CISO e che eravamo lì a latte dolce, una volta al circolo degli anziani, stavano giocando questi due anziani a carte, è andato questo qua, questo qui stava guardando le carte, ha messo le carte nel tavolo, come ha appoggiato la mano, questo ha preso il coltello, zacca, è entrato il cuscino nella mano. E siamo andati noi con l'ambulanza a prenderlo. E dopo è arrivato questo tipo che doveva essere di qualche scottecchino, di quelli che ammazzano maiali, roba del genere. Cazzo, è andato e ha detto, mi faccio l'ugusetto di macchina ancora che ha già ammazzato un buco, era tutto pieno di sangue, di cose, con la tuta bianca. Ha detto, tu fai la vita di chi si buco, ma te lo dico io, ma non abbiamo neanche staccato gli altri, perché se no l'ammazzava a vita. Ma infatti, sempre un coso di... perché lì aspetta il barista, capito? Il barista a farli arrivare a un certo limite, soprattutto conoscendo la persona, perché pure la persona lì, se si gira male anche tu ne l'ammazza, metti il caso che l'ammazza o lo fece gravemente, la colpa di chi è? Il barista gliel'ha fatta via che si livelli a dargli a B. Il barista più bevi più guadagna, e quello a lui non ne frega un cavolo, capito? Più bevi e più guadagna il barista. Capito, ma non è che stai chiudendo il circolo non per uno, circolo di pure a chi sei, boh, già, non è che stai chiudendo pure a tutti i bassoni di viso, a chi sei, boh, basta, tu hai finito, la sera lo può fare anche, se no siamo i vigili e te lo buoni fuori, fuori, lo sai? Beh, certo, però chi lo fa? Lì sono tutti quanti della stessa pasta, Lucia, lo sai, quando si deve iniziare a arrivare, iniziare a leggere tutti i grafiamo, mi ricordo di una scommessa che ho visto lì al circolo, non quello degli anziani, quello di fronte. Uno per scommessa si è fatto mettere 15 campani, tutti quanti in fila, ce li ha tutti bevuti, capito? Uno dopo l'altro, se lui dice, vabbè, poi Zenturino, ha avuto Zenturino, e si è bevuto 15 campani uno dopo l'altro, ha succedato da luna. E da ricovero proprio, chi su come ti ricosubito? Già lo conoscevo bene io anche chi era. Anziano, beveva come una spugna. E poi c'aveva un'altra cosa, quando prendevamo la Fanelli facevamo gli scherzi, li mettevamo, lui prendeva sempre la fetta più grande, no? E praticamente noi li mettevamo, aprivamo il coso del pepe e lo mettevamo in mezzo, ti immagini la gatto veniva una montagna e poi chiudevamo la fetta, lui vedeva la fetta grossa, abbigliata, si era mangiata e non ha detto niente, non ti va di nulla. Io non ho sentito niente, nemmeno ho sentito, magari a grimmelli dentro, ma no, tanto non ti dava la soddisfazione, capito? Diciamo che è rientrato Antonio, va avanti. Ah, è bombolino, bombolino. No, io per bravacino mi... Ma quello di mio bugino com'è il circo? Tranquillo? Chi canta mia figlioccia? E Sara, è mia figlioccia. Come canta? Non l'ho mai sentita cantare. Cosa? Quella dei circoli. Ho capito. Sì, sì. Ma dove era la Teroce? Chi ha vinto quella gara lì? Bella veda. Non l'ho mai sentita cantando a Sara. E vorrei ascoltarla, vorrei sentirla. Cosa? Io non l'ho mai sentita, sto dicendo quello, non sto dicendo che non sa cantare. Crino di consolazione, dai. Ma non te lo ricordi chi era? va bene allora. Cosa ha cantato Sara? Ah, la sempre Devinetti. KK. Quest'anno qua la pizzeria forse non fa nulla, perché non li vogliono dare incentivi dal comune e non li conviene. Ebbene, tanto ma ti ha chiamato Ghiddu? Ah? Ebbene? Ah, perfetto, ti vuole? Vediamo un po' se c'ho la macchina per Porto Torres. Vediamo un po'. Beh, se no, buh. Purtroppo non posso... Non posso affrontare le spese. Come cazzo la faccio? Cioè, cosa mi compro la macchina? Dopo prima questa di là e due campagoli di là. No, non ho bisogno della macchina. Adesso vediamo, ora qualcosa... La cosa cambierà. Ma io ho moto no. Se ne ha portato sei moto, ma anche no. Ma che avendola io, me no, la moto proprio zero, se no la macchina è una cosa chiusa. La moto per me, però basta, basta così. Ma voglio, vi ho girato in moto, ne ho preso temperie, per carità. E vabbè, tu altro lo puoi fare. Ma ti sei abituato, dai. Perché tu non manco soffri di cervicale, io soffro di cervicale, non posso pigliare freddo, no? Eh beh, ci mancherebbe. Ma c'è il baracchinato in camera? Ah, infatti pensavo fosse in soggiorno dove ci hai fatto il coso, là. Cioè c'è l'impianto. Va bene. C'è una cosa stasera, Tony si chiama. Cazzo, a me sono medicato, sei dalla FBT, bella, eh. Come mi ha scritto di una marca che costano un pacco di soldi, tipo, ma casa è serio, c'è un impianto serio, proprio di quelli seri veramente, 80.000 euro. Come? Che cosa? Questo lì è un musicista, fa registrazioni anche. Come si dice? E niente, stavamo parlando di casse. Insomma, queste casse non mi ricordo che marca sono, intanto proprio serio, si aggira intorno agli 80.000 euro. Lui è FBT. Ehi, avanti già. Tu cosa c'hai già? Di casse? Casse di birra faccio io. Anzi, manco vissi. Io ho le Panasonic che hanno i super woofer. Solo che non attacco quell'impianto che consuma troppo, non sto più attaccando, sto attaccando l'altro che consuma di meno. C'è il superwoofer e tocca le bombe. Vibrano i bicchieri della cristalliera grazie allo zocca. Io ho un impianto compatto, zocca, cazzo c'è zocca, dell'Aifa. Ma zocca veramente. Cioè le due case e poi il coso, no? Tutto il blocco dello stereo. Ma zocca un bel veramente già, non l'ho più attaccato. E poi l'altro giù ho lasciato l'Ontiat, che solo zocca lo stesso, peccato. Si chiama Cubo, e quello io ce l'ho però della Panasonic, che c'è tutto l'impianto Panasonic, e il piatto Sony, e davvero sei professionale, Antu, comunque la Panasonic è la sottomarca della Pioneer. Oh, io la domanda che bevo la passare la birra. E comunque io ho case da tutti i rimasti in casa, sono pubblici da Antonio. Cassi di birra non hai? Ho detto che io non ho una veranda, ma invece ho fatto solo la birra. Ma FBT? Ciao a te. Buonasera. No, sì, non è caso della birra, ti farò gonfiare la pancia. Vabbè, comunque... Comunque le casse... sono del parere che meno spendi meno hai, inutile. Meno spendi meno hai. Quelle buone sono le GBR, le Bose, quelle di casa, le Bose sono forse le migliori che ci sono, sono piccole ma toccano i vostri. Io canto anche nel computer, non c'ho computer, ma un computer è minorito, ma l'impianto già è bello. Ci vuole un mixer buono, le casse buone, i microfoni, sono c'è quelli così. Secondo me, perlomeno io ho cantato da vari quelli che fanno karaoke, ma karaokisti, ti posso dire che secondo me Costantino è uno dei migliori. Ah, vabbè, a prescindere, ma come spinta di microfonia, i microfoni sono buoni quelli di Costantino, è venuto da Rivà. Mi ha pagato un sacco di soldi quei microfoni. Non stiamo parlando tanto di microfoni da 50, 60, 70 euro, stiamo parlando di 300 euro mi pare, l'uno. Ma se facciamo karaoke di nuovo? Bah. basta pagare la CIA, e pagata la CIA Romanco. Ma sai cosa la rischia? Non aver pagato la CIA e si mica una multa di 5.000 euro, ma non pagare 30, 40, 50 euro. Schiazzi di coraggio. Che ti fa lo sconto? Tu gli fai lo sconto? Sì, ma io dico, ma uno può rischiare, non so quanto costa, 30 euro, 35, boh, 50, non lo so. Cazzo, c'è 5.000 euro di multa, c'è me. E quanto so io c'è anche il sequestro dell'impianto. Cazzo, c'è, è ricchi ma cosa? Che vaffanculo, tanto la gente gli avvenne, ma poi la gente è venuta. Io da un vecchio tanto, poi non era venuta quella là. Capito. E sicuramente gli ha detto la amica a due, cioè tu cugnata l'ha detto non venire perché ve lo io, qua è gioco più che sicuro. Ma io mi ha fatto assare a me. Questo si butta ciappo a te, non è che su cui tu chissà fa cosa. Però tu, la dici a ciappo, non ti pone in mezzo, ve li dico due ballonina alla signorina, ti passi di cazzi suoi. Quando vede a me, lei quando vede a me non vede manco salutare. Uno, se fa un po' i cazzi suoi se deve fare, perché non se li sa fare i cazzi suoi. Cazzo tu dico sai, cosa le puoi dire a Edda? Ma puoi assai a me. Se fa i cazzi suoi, boh, se mettono a mettere nei cazzi miei. Vedete, pensare la vita sua, non la vita degli altri. Ma che c'è la Medusa? Non può più di nessuno. Guarda, c'è la Medusa, No, no, Rix, figurati tanto, ha tutto detto io. Sono in quel Rix, fate pure. Sì, no, se ce l'ho quello. Allora, il discorso, quello che sto dicendo io è di farsi un po' i cazzi suoi. Di intromettersi nei cavoli degli altri, capito? Tutto qua. Io la cerco, non mi affutti, perché non mi interessa. Manco minimamente. E ti posso dire una cosa. Visto che lei si è comportata così, tornando indietro, lì macchina non l'aveva mai seduta, te lo giuro, non l'aveva mai seduta. È a modo suo, pare che abbia sempre ragione, capito? Perciò la attacca tutta per i gatti suoi, Te lo so, a me la fai con i sci, si è aperto. Cioè poi il discorso che ti... quando parli con lei, non ti fa parlare, fammi finire di parlare, così si ragiona, no? Cioè, solo è da popolità, solo è da... vabbè, comunque la prossima volta si deve fare un po' i cazzi suoi, questa volta la lascio passare, cosa si grida, sì, a me non mi nuda, non mi interessa, a me dispiace che la sera di Sara, però con me non batte il chiodo, proprio zero, ma che a me dia da una fatti proprio nuda, ma se vuoi di nuda, zero completamente. E poi vabbè, ma sai, te l'avevo già detto, comunque adesso ti mando un messaggio, e questa me l'aveva detto lei, me l'aveva detto la signora, riferita a tua cognata. E vabbè, comunque, ti ho mandato un messaggio. Aspetta che esco qua. Ti ho mandato un messaggio, capito? Ah, non è così, vabbè, comunque no, me l'ha fatto un cazzo. Cioè, mi faccio la mia vita, io mi interessa, io sto aspettando solo la chiamata di lavoro. E poi le cose cambiano. Eia. Vabbè. Sopportate. Le spalle sono grandi. No, non è così già. Lo sento, lo mettono nei cazzi miei, non mi piace più allora la situazione, no, io non mi metto nei cavoli degli altri, faccio gli affari miei, quando vedo e non vedo, capito? Non riferisco, queste cose mi danno fastidio, tutto qua, e a me deve solo evitare e basta, quando mi vede fa finta di non conoscermi, perché sono che si alzata a salutarmi e canto 4. Non so cosa abbia detto, però fregatene lui. Tanto la gente avrà sempre da dire che fa bene, che fa male, sempre ci avrà da dire. Capito? Tanto è così, a me da voi, va. Pensa tu cosa andava a pensare? Cazzo, allucinante. E tu dimmi se a me non mi rendeva nervoso. Tu dimmelo tu, ma cosa ti ha detto? E come ti battisti, vuoi invitarti, cosa devi dire, amatesi cosa? C'è la stessa cosa. Infatti, no, uno si deve anche fare un 10 centesimi di affari suoi, capito? No, un euro, 10 centesimi, che sono pochi, Non si deve intromettere. Queste cose qua a me non piacciono, quando uno si intromette nei cazzi degli altri. Tutto qua, vabbè. Adesso a vedere se devo dare la mangiare alla dea. Dai, e poi domani dopo entra un amico che alle 3:30 a pensare questi mobili, l'ha chiamato. E poi dovrei cercare un numero che mi serve. Se sarà molto difficile che me lo diamo questo numero. Quindi se no si fa troppo, se la tira alla lunga tu, per quanto riguarda quel lavoro là, molto alla lunga. Dovrebbe essere tua sorella? No, a Sassari Antù. Sassari o fuori Sassari, vabbè. Ma ha messo più già, quello è il problema. Adesso è controllo, vediamo. Le previsioni, vediamo un po'. Ha messo più già domenica. E sarà tosta la cosa, è molto tosta. Lascia vedere. Sassari. Vedi. Casino. È un casino. Vabbè. Se mette più già perde un sacco di soldi. Ma io ma cura gago, no, cioè. Lasciamo fuori. Ma cura gago, non mi interessa. Ma so pure camicia. Così è. Metti pari giusto. Non funziona così. Mi dispiace. Non funziona. Grazie da prima pure camicia, non aveva. Prima era così. Ma è un'altra maniera, no? Funziona così. Vabbè, comunque. Interessante che non mi zecchia, no. E quando mi vede mi deve anche le braccia, non mi deve manco salutare. Ma tu cambiano discorso, ci vai alla corrida. E fra poco è il mese di maggio. Non lo so il giorno, non me lo ricordo, ma c'è. No, l'hanno messa su Facebook. Quella Mimmi Pulito, tutto sporco, tutto le gocce, quella lì c'è, che fa la pubblicità e dice il giorno, l'8, no, il 28 forse. E già è bello, a me mi piace, a me mi ha fatto ridere un po'. Teatro comunale, canta, la corrida, no, il 28, è di Lucio Codizendi, la fanno a maggio, e quello è poco, come mi era piaciuta, la volta che ha cantato tua moglie mi è piaciuta, la cosa che c'era, specialmente mi è piaciuta, mi è simpatica quella lì, mi nomi la goccia, cazzo, ma chi, ma come si chiamava? Basilio. C'è un giorno di un bel. Lo sai che poi dice le cose che la gente si rispecchia, perché in effetti è così, no? La moglie prepara tutto per andare al mare, il marito bussando nel divano, aiù, ancora così sì. E chi ti ha fatto un romanzo, ma la faccia così rende freddo. No, tu, tornando al discorso di prima, non è cosa di tu è da chi, io l'ho vista la cosa dell'occhio, mi ha detto che c'ero io e se ne sono andate, ma non è che mi interessa, ma gliel'ha detto lei, l'ho vista io. Punta, ma se erano i Busenti, se ci l'ha data, ma ho visto, vedi quella che c'è Luca, e se ne sono andati, capito? Però, mi dispiace dirlo, ma sapete che non è sana di capo. Ah, vabbè, chi se va... Facciamo perdere. Porto cugna del pizzo, tranquilla. Beh, ragazzi, io sto andando a portarci il cane, dai, ci sentiamo, buona serata, buon continuo questione. Ciao! Ah, dalla volta che dice che si vedeva al bagno, dai, anche me ne fate da un culo. Ma che cazzo la vede su cazzo di bacio su via Agosto? Sì, va. Infatti da latino la buvide, non mi dietro la buvide, sa qua cosa. Sì, c'è sta sola. ce ne sia dove non c'è gente. Si vede proprio schia, come se sia portante. E insomma, dammi una leva, mi ammai, dammi la scena, vai. Cazzo, no, vabbè. Ma si può. Gesù, sezzate con fiumi, auto sommesse, persone sui tetti. L'Emilia Romagna, nuovamente in ginocchio. Sant'Antonio mio. Mi chiama domani, datti aggiorno, dai. Che va, che va. Ciao a tutti.